258. Pollo disossato ripieno. Per disossare un pollo, il modo più semplice è il seguente. Tagliategli il collo a metà, la punta delle ali e le zampe alla giuntura della coscia. Poi, senza vuotarlo, apritelo lungo il dorso, superficialmente dalle ali al codrione, e con un coltellino ben tagliente cominciate a levar dall'interno le ossa delle ali, scarnendole bene. Dopo, sempre dall'interno, levate quelle delle anche e delle cosce. Quindi, radendo via via col coltello le ossa esterne della carcassa, vi riescirà di levarla tutta intera, comprese le interiora. I piccoli ossicini della stizza lasciateli, oppure levatela tutta e levate la forcella del petto. Fatto questo, rovesciate le cosce e le ali, già spoglie d'ossa, ritirandole all'interno e portate via tutti i tendini che trovate fra mezzo alla carne. Ora che il pollo è disossato, se fosse alquanto grosso, formate il composto per riempirlo con grammi 300 circa di magro di vitella di latte. Se piccolo, regolatevi in proporzione. Tritatelo prima, poi pestatelo nel mortaio per ridurlo ben fine. E a questa carne aggiungete una grossa midolla di pane insuppata nel brodo, un pugno di parmigiano grattato, 3 rossi d'uovo, sale, pepe e, se vi piace, odore di noce moscata. Per ultimo, mescolate nel composto grammi 20 di prosciutto grasso e magro e grammi 20 di lingua salata, tagliati l'uno e l'altra a piccoli dadi. Riempito che abbiate il pollo, cucitelo e involtatelo stretto in un pannolino e legatelo. Mettetelo a cuocere nell'acqua per un paio d'ore a fuoco lento, poi toglietegli l'involucro e fatelo prender colore prima col burro e poi in un sugo tirato nella seguente maniera. Spezzate tutte le ossa levate dal pollo, il collo e la testa compresi, e con carne secca a pezzetti, burro, cipolla, sedano e carota. Mettetele al fuoco in una cazzaruola. Condite con sale e pepe. Tiratene il sugo con l'acqua in cui ha bollito il pollo, la quale è già divenuta un buon brodo. Prima di mandarlo in tavola da solo o con contorno, levategli il filo con cui fu cucito.